Ciao, sono Pasquale da Radio Big World e anche oggi ci scambieremo dei pareri su argomenti che a parer mio sono interessanti. A parer vostro fatemelo sapere. Credo che vogliate esserne coinvolti da questi argomenti, perché anche se sembrano un pochino acidosi, in realtà sono molto importanti per la vita personale di ognuno di noi e per le relazioni sociali che possono o che debbono innescare. Di questi giorni all'improvviso nel mondo tante donne denunciano di aver subito approcci sessuali indesiderati o approcci sessuali da persone indesiderate. Credo che più o meno questo succeda da quando il mondo è il mondo, no? Da quando l'uomo con la clava trascinava, salvatemi il rispetto per tutti ovviamente, no? Trascinava la donna con i lunghi capelli biondi e si appartava con lei, a oggi quando attraverso altri sistemi molto più raffinati e più insinuanti, perché meno trasparenti, avviene che questa forza enorme che è la spinta sessuale che è dentro alle persone, sia dentro agli uomini e dentro alle donne, questa spinta si attua. Allora, cosa mi ha colpito in particolare di questi eventi, di queste donne che in un modo o in un altro si sono lamentate di, tra virgolette, aggressione sessuale, no? Mi ha colpito che è scattato la prima molla e poi, come tante lampadine che si accendono una dopo un'altra, tante altre scatole chiuse con delle molle si sono aperte anche a me un anno fa, anche a me 5 anni fa, ma che so io, più bischera di lei che l'ha cercata il tizio e me mi ha cercato, no, anche me mi ha cercato, è come, è proprio un maialone, bello questo qui, no, perché ti dà la sensazione di valore dato all'approccio sessuale, che è veramente una cosa squallida, la parola maialone eccetera. Comunque, all'improvviso tante donne, per motivi vari, qualcuna perché forse non ne poteva più, qualcun'altra perché non doveva essere da meno delle altre e quindi ha avuto l'opportunità per salire sulla ribalta e dire: guardate che tra le belle del momento c'era anch'io e anch'io ero desiderata, anch'io sono stata molto brava perché ho lasciato che lì per lì mi abusassero e ora mi voglio vendicare. Bene, questo è un fatto. Credo che se avete ascoltato l'informazione sia dei giornali che della televisione in questo periodo, quando è venuto fuori il nome della Catherine Deneuve e di un suo articolo, una lettera aperta su Le Monde, credo che qualcosa dovrebbe avere illuminato quello squallore che dianzi dicevamo, cioè lo squallore era avere utilizzato una storia di sesso non gradevole per avere uno spazio nel mondo dei media e altro. Allora, cosa ha detto questa signora che tutti da tempo conosciamo come brava attrice, come protagonista della vita sociale anche nei momenti? Ha detto, è vero che ci sono degli approcci, che ci sono stati degli approcci non adeguati alle esigenze del mondo femminile, ma però sarebbe molto molto peggio se da parte del maschio non ci fosse l'interesse, il corteggiamento, alle volte anche sbagliato, verso il mondo femminile. Quindi si contrasta l'idea di qualcuno che vuole usare gli altri, ma bisogna accettare fino in fondo l'idea che è indispensabile l'aggancio tra l'uomo e la donna, possibilmente nei dovuti modi rispettosi della civiltà di oggi. Perché della civiltà di oggi? Perché la sessualità non è uno strumento che si presenta nella stessa maniera nel corso dei secoli o dei millenni. No, prima parlavamo dell'uomo con la clava e della donna bionda trascinata per i capelli. Ovviamente è un'immagine provocatoria, però credo nella nostra testa un pochino c'è e ci fa risalire al periodo dell'inizio della presenza dell'uomo sulla terra, eccetera. Ma più vicino a noi, oggi da noi si parla di pedopornografia, un aspetto abbastanza negativo nella vita sociale di oggi, perché utilizzare scene sessuali con bambini che al limite non comprendono neppure quello che gli sta succedendo, forse non è un segno di civiltà, ma al contrario è una spia di una civiltà bacata. Però nel periodo, per esempio, aristotelico, il più grande pregio, il più grande beneficio che una famiglia nobile che mandava i propri bimbi a studiare dai grandi saggi era di sapere che quella sera il loro bimbo sarebbe andato a dormire insieme al suo maestro. Era stupidità, cattiveria, giustizia, valorizzazione. Ognuno qui dà la sua risposta. Però, mentre oggi parlare di pornografia e di bambini è una cosa abominevole, socialmente così riconosciuta, qualche centinaio, anzi diversi centinaia di anni fa, non era proprio così, ma era una cosa molto bella. Allora, questo sta a significare che la sessualità di per sé, il modo con cui la si esercita, non sono valori o atteggiamenti oggettivi, sono modi che cambiano, si perfezionano. Ognuno penserà di sostituire la parola perfeziona con barbarimento, si perfezionano o si imbarbariscano col passare dei tempi. Allora, questo richiamare da parte della Deneuve l'attenzione necessaria dell'uomo verso la donna come componente sessuale mi sembra sia un richiamo estremamente valido ai giorni di oggi. Pensiamo un attimo a una società dove non c'è più attrazione sessuale. Nessuna donna si sente oltraggiata, nessun uomo viene giudicato prevaricatore, sempre in quel campo, Ma però la società prima di tutto è grigia, perché manca dei rapporti forti che esistono tra il genere maschile e quello femminile. E poi è una società senza avvenire, perché la sessualità è l'elemento indispensabile perché avvenga la continuità nel tempo della società in cui si vive. Cioè, questi bimbetti o queste bambine debbono pure nascere, e finché non ci sarà la macchinetta apposta per stamparli, bisogna che ci sia un rapporto, una unione tra un uomo e una donna che si chiama unione sessuale, che la natura, sempre intelligente e opportuna, ha reso gradevolissima, perché altrimenti chi si metterebbe, stando a tavolino, a decidere allora oggi, tra un anno, domani, devo far nascere un figlio? Ci sarebbe una limitazione enorme di nascite di vite umane e quindi un'autodistruzione della società. Se c'ho tempo, voglio ancora dirvi altre due cosette. Io ho vissuto anche da ragazzino in un ambiente qui del Val d'Arno pieno di detti popolari, di saggezze popolari, e già quando non capivo cosa significava mi rendevo conto che quello che sto per dirvi era considerata una cosa importantissima. Per chi non lo sa, i carri di buoi sono dei carretti tirati dai buoi che venivano utilizzati in campagna per trasportare tutte le masserizie, dall'uva che veniva colta dalla pianta verso la cantina, dalle olive, dal grano per trasportare gli animali. Quindi il carro trainato dai buoi era un elemento importante della società, perché era un modo per risparmiare tante energie e per portare grande quantità di peso da un posto a un altro. Si diceva: guarda come tira il carro dei buoi oggi. Vuol dire che i buoi erano una bella coppia, robusta, ben nutrita, eccetera. E il proverbio che girava era: tira più un pelo d'un carro di buoi. E io non capivo. Poi ho capito cosa significava e, dopo le premesse, credo tutti voi avrete indovinato cosa vuol dire un pelo e cosa vuol dire un carro di buoi. Se questo qui non avvenisse, disgraziata società, come dicevamo prima, chi ce lo farebbe fare di continuare a sopravvivere? Se questa è una condizione oggettiva, cioè che questo pelo tira veramente tantissimo, allora vuol dire che quando un uomo è a rimorchio di questo, del pelo, vuol dire che perde un po' delle sue caratteristiche di scelta, di tranquillità, di indipendenza dalla rabbia, e si trova, salviamo sempre la parola, tra virgolette, obbligato a seguire questo istinto, questo fiuto, questa passione, perché natura è così che vuole che si comporti: tira più un pelo d'un carro di buoi. Allora, se succede che nei rapporti tra uomo e donna, nei rapporti sessuali e sociali poi tra uomo e donna, nascono delle difficoltà perché in dei momenti l'uomo perde la testa, non si dice che l'uomo è bene che perde la testa, ma si dice che si capisce che è possibile che l'uomo perda la testa. Poi ci sono le leggi. Le leggi fanno il loro corso, sono le regole, ma non ci meravigliamo se nel mondo delle relazioni sociali e sessuali l'uomo alle volte perde il controllo. Questo non lo dico perché voglio difendere il genere maschile a cui appartengo, ma perché anch'io, come tutti, ho provato, se è provato, che si perde la testa davanti, in un'età particolare, dall'adolescenza in su, davanti a un bel faccino, davanti a un corpo ben fatto, davanti a un atteggiamento invitante della donna. Non si può essere ipocriti, perché l'ipocrisia poi viene sempre a galla e non giova a nessuno. Bisogna prendere atto che alle volte si può perdere il controllo, e se si va fuori dalle regole imposte dalla società bisogna anche pagare. Con questo non voglio dire che il femminicidio è una giustificazione dell'atto del maschio che è condizionato dalla sessualità, però teniamone conto anche di questo, perché io sono convinto che tante volte l'uomo perde la sua caratteristica di razionalità, perde la sua sensazione di affetto e fa delle cose inumane, cioè uccide. Non si può uccidere né per sesso, né per giustizia, neppure lo Stato può uccidere. Nessuno, a parer mio, ha diritto di togliere la vita a un essere umano che fa parte della sua società. Alla fine di tutti questi discorsi e di queste sensazioni, io mi sento più tranquillo con me stesso, perché anche se non è stato facile esprimere le mie sensazioni più che i miei pensieri, però mi rendo conto di essermi tolto dalle spalle qualcosa che mi pesava, che era collegata all'idea che tutte le volte che c'è sesso un pochino forte c'è una perdita di naturalezza. Io credo invece che nel mondo del sociale e del sesso anche atteggiamenti piuttosto forti, nessuno ha diritto di uccidere, sono utili perché la società vada avanti e perché noi persone si sia più soddisfatte, più tranquille, più adeguate alla società in cui viviamo. Da Radio Big World, buona giornata, buona serata e a risentirsi a presto, se vi sarà gradito l'incontro di nuovo con Pasquale. Ciao ciao.